Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. La seduzione non è il luogo del desiderio, è quello della vertigine, dell'eclissi, dell'apparizione e della sparizione. Jean Baudrillard. Domenica 11 ottobre, bentornati in giardino. Oggi ci lasciamo sedurre dalle piante, scoprendole accostate a fontane, giochi d'acqua, sculture, e lo faremo andando in provincia di Viterbo, a Bagnaia, in uno dei giardini all'italiana più noti al mondo, quello di Villa Lante. Ma prima, la seduzione, la troveremo online attraverso il progetto orticolario di Origin, che partirà il prossimo 15 ottobre. Perché se quest'anno il Covid ci ha privato fisicamente di orticolario ad ottobre nel parco di Villerba Cernobbio, purtroppo perché è una manifestazione amatissima, in compenso potremmo giovarci, sempre al sito orticolario.it, di una versione online fruibile ad ogni ora e da tutto il mondo gratuitamente. Un progetto che promette di sedurci per un anno intero. La seduzione è infatti il tema di quest'anno e l'acero la pianta guida. Cosa scopriremo e come funzionerà Orticolario di Origin? Ce lo facciamo spiegare da chi Orticolario l'ha creato 12 anni fa, il presidente anche di Mantero Seta, Moritz Mantero. Ho fatto una strana scoperta. Ogni volta che parlo con un sapiente sono sicuro che la felicità non è possibile. Eppure, quando parlo con il mio giardiniere, io sono convinto del contrario. Bertrand Russell. Bentornato al giardino segreto a Moritz Mantero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Moritz Mantero, ma cosa succede? Quest'anno non ci incontreremo nella cornice spettacolare di Villa Erba a Cernobbio, villa storica con parco vista lago, per ovvi motivi. Però Orticolario, la mostra natural culturale, c'è comunque e ci sono anche dei lati positivi in questo cambiamento. Cosa dice? Beh, intanto la novità di The Origin è proprio che ognuno, in ogni parte del mondo, potrà entrare nel parco di Villa Erba. È chiaro che non ci saranno fisicamente i nostri espositori, i nostri artisti, i nostri designer. Però ci saranno delle schede, dei marker, come li chiamano tecnicamente, schiacciando i quali ci si ritroverà dall'espositore, dall'artista, dal designer e ci si metterà in contatto con lui per vedere che cosa ha fatto di nuovo, per parlare con lui e quant'altro. Ma la cosa fantastica è che se qualcuno avrà voglia di mettersi quegli occhiali di realtà virtuale, i famosi VR, no? Sarà impressionante perché le riprese che abbiamo fatto non solo sono in 360 gradi, ma sono anche in 3D. Quindi immaginatevi lo spettacolo incredibile che si potrà vivere con Villa Erba vuota, senza nessuno. Ha vissuto una versione online anche il Chelsea Flower Show quest'anno. Però io leggo che per quanto riguarda Orticolario di Origin verrà sperimentata una piattaforma innovativa, quindi che non è mai stata utilizzata in eventi simili. Esattamente, esattamente. Normalmente viene usata in architettura, mai in un parco, mai in un parco. La chiamano una mappatura, l'operatore si è spostato di 3 metri in 3 metri e la macchina ha girato a 360 gradi e ha preso anche cielo, prato e quant'altro. Non è mai stata usata, saremo i primi ad usarla. E presenta delle caratteristiche incredibili. Vedrete quando entrerete nell'antica villa famosa per Luchino Visconti, che lo adorava, ecco, lì sembra di essere dentro. Quindi è un'esperienza immersiva, potremo conoscere Villerba probabilmente meglio che nelle edizioni tradizionali perché ci entreremo, curioseremo immagino, e poi anche il parco intorno. Esattamente, in qualsiasi ora del giorno e della notte voi potrete essere a Villerba. E quindi diciamo che potrà visitare Orticolario anche chi di norma, anche per motivi geografici, di solito non lo fa, quindi non sarà un'edizione totalmente lombarda perché è online e basterà collegarsi a orticolario.it oppure sulla pagina Facebook di Orticolario. Esattamente, transiteremo dal nostro sito e poi sarà una visita che potrà continuare tutto l'anno. Ma perché dico questo? Perché all'inizio pubblicheremo i primi filmati che gli espositori hanno realizzato appositamente per Orticolaria The Origin, durano due minuti e mezzo, quindi non si perde la pazienza, ma ci sono delle riprese che sono assolutamente fantastiche. E questa è una delle caratteristiche di questa iniziativa. Quando noi organizziamo Orticolario, vediamo l'espositore che ha fatto il suo bel gazebo, organizzato, allestito bene e quant'altro, ma non sappiamo cosa c'è a casa sua, com'è il suo vivaio o com'è il suo atelier nel caso di un artista, o il suo studio nel caso di un designer. Lì avremo la possibilità di portarci in casa la casa del nostro interlocutore. E poi di portarci a casa le piante che vediamo, perché ormai tutti i vivaisti si sono organizzati con le vendite online, quindi in qualche modo è come essere in mostra e poter acquistare le novità o le cose che, o le piante che ci affascinano di più. Bravissimo, il coronavirus ha spinto anche queste piccole imprese, perché normalmente i nostri vivaisti sono dei piccoli vivaisti, non parliamo degli artigiani e degli artisti, li ha spinti ad organizzarsi in maniera diversa, e su quel fronte lì avremo delle sorprese in futuro. E quindi ci saranno peonie, rose, orchidee, elebori, chi più ne ha più ne metta. Però cosa ci dirà in più questa edizione di Orticolario rispetto appunto agli stand, insomma, che saranno presenti, ad esempio sulla seduzione, che so essere il tema di quest'anno, e sull'acero, che è l'albero che avete scelto come simbolo della 12ª edizione di Orticolario, di Origin in questo caso. Esatto, partiamo da quest'ultimo. Ci saranno, a proposito di quei filmati, dei filmati proprio dedicati all'acero, che tra l'altro nella stagione in cui si svolge normalmente Orticolario, questa cioè, assumono dei colori diversi dal verde, no? Quindi vanno su tutte le tonalità del rosso e quant'altro, e già questa è una seduzione. Però la seduzione che potremo proporre in questa super edizione di Orticolario è proprio l'emozione che si vivrà entrando nel parco di Villa Erba e ritrovandoci un'atmosfera che difficilmente si può trovare entrandoci fisicamente, perché il parco sarà tutto a disposizione del visitatore. E per quello che ho potuto già sbirciare io nelle prove che il nostro operatore sta facendo, è veramente un'emozione seducente. E invece l'acero per i suoi colori autunnali, perché sappiamo che l'acero può trasformarsi veramente ed essere suggestivo, rossi, gialli, insomma. E poi ci sono anche gli aceri da balcone, da vaso. Sì, no, l'acero presenta, beh, a parte, se si vuole esagerare, si può prendere un bonsai acero, che è semplicemente una meraviglia, perché poi perde le foglie, le fa rispuntare, poi cambiano di colore. L'acero è uno dei bonsai più affascinanti che ci siano. Zen puro, esattamente, zen puro. Però anche alberi sempre da vaso, quindi da terrazzo, di dimensioni piccole e medie, possono creare veramente un bel... Parlo in particolare degli aceri giapponesi, quelli che assumono anche delle forme molto plastiche, che quindi possono arredare ancora di più la propria terrazza. E quanto abbiamo bisogno di piante sui nostri terrazzi, sui nostri balconi? Quanto ne abbiamo avuto bisogno durante il periodo del lockdown pesante? Ce ne siamo resi conto quest'anno davvero? È stata una delle attività più seguite da chi è stato costretto tra le quattro mura di casa. In effetti chi ha il piccolo giardino, ma anche chi ha un terrazzo, ha potuto quantomeno rilassarsi al contatto con la natura, e questa cosa ci deve far pensare, perché l'uomo è nato nella natura e poi si è distaccato dalla natura e non l'ha trattata come la natura meriterebbe di essere trattata. Io credo che un po' di vendetta da parte della natura in questa cosa che stiamo vivendo ci sia. Lei l'ha trascorso il lockdown nel suo giardino, c'è qualche pianta a cui si è affezionato in maniera particolare o che ha scoperto proprio in occasione di questa quarantena? Dunque, vabbè, per fortuna avevo già pensato in ottobre di piantare tutte le bulbose, per cui è stato vivere il giardino veramente come non l'avevo mai vissuto, devo riconoscerlo. E poi vedere lo sviluppo giorno per giorno di determinate piante che non avevo mai provato. Lei mi ha chiesto una in particolare, l'agapanto. L'agapanthus è una bulbosa che cresce durante la primavera, ma che fiorisce a fine estate, con delle varietà che variano dall'azzurro al blu, ma anche al rosa e quasi al rosso. Ecco, se devo dire una cosa, l'Agapanthus quest'anno è stata per la prima volta nel mio giardino una sorpresa che mi sono goduto fino in fondo. Oh, l'Agapanthus è il regalo dell'estate, però ci ha detto dei bulbi che piantò ad ottobre. È ottobre. È il momento di pensare alla sorpresa della primavera. Benissimo. È il mese perfetto per piantare i bulbi. Ci dia dei consigli. Allora, il re dei bulbi è naturalmente il tulipano, però i narcisi e i giacinti fanno anche loro la bella figura. Farei più dei gruppi di singole specie varietà, perché non vanno tanto d'accordo tra di loro. Per esempio il tulipano e il narciso non vanno tanto d'accordo. Allora, facciamo un gruppo di tulipani, facciamo un gruppo di narcisi e poi giochiamo con i giacinti, che emanano anche un profumo molto intenso, molto forte. E poi ci sono le nerine, per esempio, bulbi poco conosciuti. Le nerine sono delle bulbose che hanno un fiore impazzito, tutto mosso, incredibilmente stropicciato. Colorato. Sì, stropicciato, sì. Un po' folli, dei fiori un po' folli, come un po' folle è stata la nostra iniziativa di fare The Origin. L'orticolario di Origin. Allora, non sì, ci impigriamo, scegliamo i bulbi adesso, mettiamoli in terra, non è difficoltoso, ma è veramente una pratica molto facile. E l'anno prossimo avremo la sorpresa che ha avuto Moritz Mantero durante il lockdown nel suo giardino. Nel frattempo informiamoci, conosciamo, facciamoci rapire della bellezza attraverso l'orticolario di Origin, che parte giovedì prossimo, quindi il 15 ottobre, poi per un anno piattaforma gratuita. Esatto. E sempre con sorprese aggiunte durante i mesi, per cui sarà un divertimento che uno, come ripeto, può vivere giorno e notte senza dover suonare il campanello, basta collegarsi a orticolario.it. In attesa poi della nuova edizione di Orticolario nell'ottobre prossimo. Dall'1 al 3 ottobre. Grazie Moritz Mantero. Grazie, buon giardinaggio a tutti. Il giardino è la filosofia resa visibile. Eric Orsenna. Moritz Mantero ha citato le nerine. Mi aggancio per dirvi che sempre sul lago di Como, ma a Villa Carlotta, il 17 ottobre prossimo, all'ora del giardino segreto, alle 15.30, verrà presentato il libro di Francesco Soletti intitolato La nerina del Marchese, sulle tracce del fiore perduto, per scoprire o riscoprire questi fiori folli e stropicciati. Io vi aspetto tra poco in un giardino magnifico, vicino al lago di Bolsena, da visitare anche ad ottobre. Il giardino segreto. Nulla è più figlio dell'arte di un giardino. Sir Walter Scott. Bentornati. Se gli assembramenti sono vietati e pericolosi, certo non lo è andare a godersi la visita di giardini storici, meglio ancora adesso, fuori stagione, quando lo possiamo fare in tutta tranquillità e sicurezza. Io a fine luglio ho visitato una delle perle d'Italia quanto a giardini. Sono andata nel Viterbese. Qui, a poca distanza dal lago di Bolsena, si possono visitare tra l'altro il sorprendente, esoterico, cinquecentesco Bosco Sacro di Bomarzo, il Giardino dei Mostri, e a Bagnaia, alle pendici dei magici Monti Cimini, le sorgenti e i giochi d'acqua del Giardino l'Italia, sempre del 500, di Villa Lante, giudicato nel 2011 il parco più bello d'Italia. Villa Lante a Bagnaia è stata tra le ultime a riaprire dopo il lockdown, soffrendo del poco personale, è quindi importante andare a visitarla anche per mantenere, attraverso l'interesse del pubblico, alta l'attenzione su simili capolavori. All'entrata di Villa Lante, in mezzo ad un concerto di cicale, ho incontrato una guida che si è rivelata preziosa. La presento anche a voi. Io sono Maria Morena Lepri, sono dipendente del Ministero dei Beni e Attività Culturali per il Turismo, oggi in servizio a Villa Lante. Abitualmente sono in servizio al Museo Etrusco Rocca Albornoz di Viterbo. Oggi però in mezzo ai giardini. Oggi tra i giardini all'aria aperta, stiamo bene, c'è un bel sole che ci fa piacere. E tanta acqua a Bagnaia. Sì, ci sono tante sorgenti che non ci vengono addosso, ma diciamo che arricchiscono un po' le fontane, anche se in effetti mancano quei giochi d'acqua che avrebbero creato maggiore frescura, perché voi immaginate che ogni bocchettone, ogni piccola fontanella, intorno ci sono tutti, diciamo, rubinetti che all'epoca, nel Rinascimento, erano tutti accesi. Quindi i giochi d'acqua da qui al quinto livello in alto e a discendere avrebbero creato gli arcobaleni, gli effetti proprio meravigliosi. Come a Tivoli? Eh sì. Sì, direi che come eleganza anche meglio e come compattezza, poi Tivoli ha altre bellezze, altre peculiarità. Questa in particolare è diventata famosa per l'intervento di tre vescovi viterbesi, il vescovo Riario che per primo ha impostato il parco, che poi anche aperto alla popolazione gratuitamente, e nel parco lui amava fare delle battute di caccia con gli ospiti, è molto esteso, adesso c'è solo una superficie circoscritta aperta, però tutto il parco è molto molto grande e molto fresco, i cittadini vengono e tutti i turisti vengono, si possono distendere sull'erba, prendere il fresco e diciamo tirare un respiro di sollievo quando fa caldo. Ed è un parco che sembra stupendo, quindi c'è il giardino l'italiana. Sì. E poi veramente attaccato c'è anche un parco. Al di fuori c'è il parco, dentro la recinzione c'è questo giardino all'italiana che è in dislivello, quindi ha 5 terrazze, dalla base che si chiama Quadrato, questa dove siamo adesso noi, il quadrato che ha una fontana centrale, è proprio un quadrato, lo vedete dall'alto, lo ammirerete meglio dall'alto, con tutti i giardini e le siepi tagliati all'italiana. Cos'è, bosso? Bosso per lo più. Quest'anno è stato colpito da una malattia e nella maggior parte dei casi noi ci siamo salvati. La piralide? Brava, qualche piccolo accenno che è stato subito arginato, per fortuna. Il secondo vescovo dopo Riario che è succeduto e quindi ha preso possesso della villa e diciamo che ha avuto l'iniziativa di impostare architettonicamente la villa è Francesco Gambara, di cui ammiriamo qui la palazzina con le scritte. Vedete anche il gambero che rappresenta il suo casato. Lui ha chiamato Jacopo Barozzi, il Vignola, che ha fatto i disegni di questo giardino, e poi il Ghedine che l'ha portati avanti. Comunque ha dato un imprinting importante. Dopo Gambara è succeduto Montalto, il cardinale Montalto, che ha voluto far costruire una palazzina al di fuori, esternamente gemella di quella di Gambara. Io di tutto ciò che sta all'interno delle due palazzine mi fermo solo a una nota. Quando è arrivato Montalto, il cardinale numero 3, prima di Lante della Rovere, da cui ha preso il nome, a un certo punto ha chiamato Agostino Tassi per dipingere le logge di sotto e qualcosa anche all'interno. Anche Orazio Gentileschi ha fatto qualcosa all'interno. Agostino Tassi faceva parte della bottega di Gentileschi. Agostino Tassi è il pittore che violentò una delle pochissime pittrici che abbiamo avuto nella nostra storia, Artemisia Gentileschi. Artemisia. Il processo l'ha condannato e per premio, cioè veramente doveva essere la pena, per pena l'hanno chiamato qua a dipingere Villa Lante. Ora, mi scappa un sorriso, ma un ghigno mi scapperebbe. Questo per dire che la giustizia non fa mai il proprio corso e quindi mandarlo a dipingere non era certo una punizione per Agostino Tassi. Speriamo che non l'abbiano pagato, però gli passavano comunque il vitto alloggio. Che amarezza. E voi, se sbirciate da questi vetri, come qui potete sbirciare, potete ammirare, nella loggia di Gambara ci sono le ville importanti. Quella è il giardini di Caprarola di Palazzo Farnese. A destra trovate in fondo, si vede meglio dall'altra finestra, proprio i disegni di Villa Lante trovate. Qui, purtroppo, quasi perso questo affresco, questo di sinistra, indovinate che cos'è? Tivoli. Qui richiamano tutti i giardini. I giardini intorno, importanti, con i giochi di fontane. Quindi Tivoli c'ha un riferimento, non viene dopo di questa, però c'è una liaison tra di loro, perché c'era una specie di connubio. Invece l'altra loggia, sbirciando, troverete i dipinti, gli affreschi di Agostino Tassi. Invece salendo ai vari livelli incontrerete, come visitatori, incontrerete la Fontana dei Giganti, la Fontana dei Gamberi, il gioco della discesa dei gamberi, la Fontana dei Delfini e fino all'ultimo la Fontana del Diluvio, che si trova al centro tra due ninfei che rappresentano le muse. Una sottolineatura che potrei dire è che la Fontana del Quadrato, che era già preesistente con il cardinale Gambara, aveva sopra come decorazione una piramide. Quando è subentrato il Montalto, la sostituita la piramide con i quattro mori che attualmente sono rimasti. Per chiudere la nota storica, possiamo dire che successivamente il possedimento di questa villa è andata a Ippolito Lante della Rovere, da lì che ha preso il nome. Successivamente ci sono stati altri proprietari delle società e finché è diventato proprietà dello Stato. Stato e quindi patrimonio di tutti noi. Con un bene pubblico. Un bene pubblico e con un biglietto d'accesso si può visitare. No? Dal punto di vista dei giardini all'italiana, qual è l'importanza dei terrazzamenti di Villa Lante? È importante perché è stata da pioniere praticamente, è stata la prima villa così impostata e è passata alla storia per questo. Poi hanno ricopiato, diciamo, migliorato questo esempio, però il taglio tipico delle giardini all'italiana è con le siepi tagliate a labirinto che offrivano divertimenti agli ospiti dei proprietari e quindi giochi d'acqua, piccoli nascondigli. Si divertivano a godere della frescura in mezzo a questo piccolo paradiso. E i terrazzamenti, perché in genere, dall'esempio di Villa Lante, sono stati i terrazzamenti che hanno definito meglio il tipo di giardino all'italiana, per cui a terrazze, quindi non in un livello unico, come potremmo dire Versailles. A Versailles si nota che c'è qualche dislivello artificiale, perché è una superficie quasi completamente pianeggiante. La frescura, diciamo la posizione ottimale che ha questo giardino proprio di Villa Lante, è che sta ai piedi dei cimini ed è da lì. Pensate che i vescovi abitavano a Viterbo e solo a 5 km si trova Bagnaia, ma loro l'avevano eletta come sede di riposo, come villeggiatura, e appunto il luogo ideale per portarci degli ospiti. E che villeggiatura! Ecco. Poi terrazzamenti, questo significa che ogni piano è possibile godere del disegno, delle piante curate, topiate. E noi con lo sguardo arriviamo fino al mare. Questo per dire quanto è, diciamo, la prospettiva dell'orizzonte è apertissima. È stata mantenuta con tutte le varietà di piante, vediamo i pini romani dentro, lì, da perdersi per le tipologie di alberi, e le sorgenti di cui era ricco questo territorio. Meraviglioso. Adesso, certo, si soffre un po' per il risparmio dell'acqua, si soffre un po'. E quindi non più i vecchi giochi d'acqua, è impossibile, sarebbero troppo costosi. Io suggerirei, mi permetto di suggerire delle soluzioni, non comando niente, però mi piacerebbe suggerire delle aperture momentanee di giochi d'acqua. Degli eventi, in maniera da avere un pubblico certamente un po' più circoscritto, magari con prenotazioni, nel corso delle settimane o dell'anno, certi momenti, in maniera che le persone... più persone abbiano la possibilità di prenotarsi e di godere di uno spettacolo che altrimenti non vedranno più. Questo vale non solo per Villa Lante, vale anche per il museo da dove vengo, che è meraviglioso, che ha delle collezioni uniche al mondo e non è conosciuto da nessuna parte. Certo. Sto parlando del museo archeologico che si chiama Rocca Albornoz e prende il nome dal famoso cardinale spagnolo che è stato mandato alla fine del periodo avignonese in avanscoperta a far costruire delle fortezze per il papato che doveva tornare a Roma di difesa. E quindi noi troviamo Rocca Albornoz a Spoleto, a Urbino, ad Assisi, a Narni, a Orvieto e a Viterbo. Queste fortezze portano il nome di Albornoz, oggi sono dei palazzi Albornoz di cultura, e ogni palazzo di cultura, a prescindere dalla Rocca Albornoz, andrebbe valorizzato con dei progetti, con delle iniziative ad hoc. E quindi, diciamo, a maggior ragione siamo a Villa Lante, anche questa. Abbiamo già fatto uno sforzo notevole per aprirla e per tenerla aperta tutti i giorni, non è da poco, in questo momento in cui abbiamo un'altissima carenza di personale. Stiamo aspettando nuove assunzioni del Ministero, quindi dobbiamo favorire l'occupazione soprattutto nel nostro patrimonio che offre il famoso petrolio naturale. Certo, e che l'Italia non riesce a sfruttare assolutamente. Però diciamo brava. Che Villa Lante è l'iniziatrice dei giardini all'italiana. Brava. Cioè tutti hanno copiato da qui? Sì, tutti hanno copiato da questa tipologia di giardini all'italiana. Villa Lante, a Bagnaia, Viterbo. Grazie. Di nulla. Niente è arte se non viene dalla natura. Antoni Gaudì. Grazie per essere stati in giardino con me anche oggi. Vi aspetto domenica prossima, sempre a metà pomeriggio alle 15:30 con il Giardino Segreto o se no in podcast, quando volete. Una buona settimana da Roberta Pellegatta. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.